molte facce il lume s'avvicina, mio ben. Stiamo qui un poco finché da noi si sposta. Ma che temi, adorato mio sposo? Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' veder se il lume già lontano. Ah, come da costei liberarmi? Rimanti, anima bella!